32esima traccia. Questo farà il caso mio, sapete? Io son sicura di dire tre cose scipite appena apro bocca, non è così? Guardando intorno con la più bonaria aspettativa del consenso di tutti. Non credete tutti che ci riuscirò? Emma non poté resistere. Ah, signora, ma ci può essere una difficoltà. Scusatemi. Ma avrete un limite nel numero, soltanto tre alla volta. Miss Bates, ingannata dalla pretesa cerimoniosità dei suoi modi, non afferrò immediatamente il senso. Ma quando esso le si rivelò d'un tratto, non poté farla stizzire, sebbene un lieve rossore mostrasse che pareva addolorarla. «Ah già, sicuro, si capisce quel che vuol dire», volgendosi a Mr. Knightley, «e cercherò di frenare la mia lingua. Devo rendermi molto sgradevole, o non avrebbe detto una cosa simile a una vecchia amica. Mi piace la vostra idea, esclamò Mr. Weston. Accettata, accettata. Farò del mio meglio, farò un gioco di parole. Come sarà valutato un gioco di parole? Basso, ho paura, babbo, molto basso, rispose il figlio. Ma saremo indulgenti, specialmente col primo che si fa avanti. No, no, disse Emma, non avrà una valutazione bassa. Un gioco di parole di Mr. Weston disimpegnerà lui e la sua vicina. Su via, signore, sentiamolo. Mi domando io stesso se sia molto brillante, disse Mr. Weston. È troppo una constatazione di fatto, ma eccolo qui. Quali sono le due lettere dell'alfabeto che esprimono perfezione? Quali due lettere che esprimono perfezione? Davvero non saprei. Ah, non l'indovinerete mai. Voi, Emma, son sicuro che non l'indovinerete mai. Ve lo dirò io. M e A. M, ma. Capite? La comprensione e il compiacimento vennero insieme. Poteva essere una freddura molto mediocre, ma Emma ci trovò materia da ridere e da divertirsi. E così fecero Frank e Harriet. Non parve aver lo stesso effetto sul resto della comitiva. Alcuni presero un'aria tonta e Mr. Knightley disse gravemente: «Questo spiega il genere di cosa brillante che si desidera». E Mr. Weston se l'è cavata benissimo. «Ma deve aver sfinito tutti gli altri. La perfezione non sarebbe dovuta venire così presto». «Oh, quanto a me, dichiaro che debbo venire scusata», disse Mrs. Elton. Io davvero non posso provarmici, non mi piace affatto codesto genere di cose. Una volta mi venne mandato un acrostico sul mio proprio nome, che non mi garbò punto. Sapevo da chi veniva, un detestabile vagheggino. Tu sai chi intendo, facendo un cenno al marito. Cose di codesto genere van bene per Natale, quando si sta seduti intorno al fuoco, ma son proprio fuori di posto, a mio modo di vedere, quando si fanno scampagnate estive. Miss Woodhouse deve scusarmi. Io non sono di quelle che hanno spiritosaggini a disposizione di chiunque. Non pretendo di essere arguta. Ho un bel po' di vivacità a modo mio, ma davvero devo essere lasciata io a giudicare quando è bene che io parli e quando è bene che freni la lingua. Saltateci, vi prego, Mr. Churchill. Saltate Mr. Elton, Knightley, Jane e me. Non abbiamo niente di brillante da dire, nessuno di noi. «Sì, sì, vi prego, saltate me», aggiunse il marito, con una specie di beffarda consapevolezza. «Io non ho niente da dire che possa divertire Miss Woodhouse o qualunque altra giovane signora. Un vecchio sposo, buono a nulla. Facciamo due passi, Augusta?» «Ben volentieri. Sono proprio stanca di esplorare per tanto tempo uno stesso posto. Venite, Jane, prendetemi per l'altro braccio». Jane, tuttavia, declinò, e marito e moglie si allontanarono. «Felice coppia», disse Frank Churchill, appena non poterono più sentirlo. «Sono proprio fatti l'un per l'altro, proprio fortunati, considerando che si sono sposati così dopo essersi conosciuti solo in un ritrovo pubblico. Si sono conosciuti, credo, da poche settimane a Bath. Proprio fortunati. Perché che reale conoscenza dell'indole d'una persona possa dare Bath o qualunque luogo pubblico, non è neanche il caso di parlarne. Non ci può essere conoscenza alcuna. È solo vedendo le donne nelle loro case, nel loro ambiente, come son sempre, che ci si può fare un'idea giusta. Senza questo, è tutta una faccenda di congetture e di fortuna, e di solito sarà cattiva fortuna. Quanti uomini si sono impegnati su una breve conoscenza e si sono pentiti tutto il resto della vita? Miss Fairfax, che aveva di rado parlato prima, se non con quelli con cui aveva fatto lega, parlò adesso. «Tali cose capitano certo», fu fermata da un colpo di tosse. Frank Churchill si voltò verso di lei per ascoltare. «Stavate parlando», diss'egli gravemente. Essa recuperò la voce. «Volevo soltanto osservare che sebbene tali sfortunate combinazioni capitino talvolta sia a uomini che a donne, non posso immaginare che siano molto frequenti. Può nascere un attaccamento freddoloso e imprudente, ma di solito c'è poi abbastanza tempo per ravvedersi. Vorrei che si capisse che intendo che solo caratteri deboli, irrisoluti, la cui felicità deve sempre essere alla mercé del caso, tollereranno che una conoscenza non felice diventi un inconveniente, un'oppressione per sempre». Egli non rispose, dette solo un'occhiata e si inchinò con deferenza e subito dopo disse in tono vivace: «Ebbene, io mi fido tanto poco del mio proprio giudizio che qualora io debbo sposarmi spero che qualcuno mi sceglierà la moglie. Volete farlo voi?» rivolgendosi a Anna. «Volete scegliermi una moglie? Sono sicuro che mi piacerebbe qualunque persona su cui lasciaste cadere la vostra scelta. Voi provvedete per la famiglia, sapete», con un sorriso a suo padre. «Trovatemi qualcuna, non ho fretta, adottatela, educatela, fino a renderla simile a me. Assolutamente, se potete. Benissimo, accetto l'incarico. Avrete una moglie affascinante. Deve essere molto vivace e avere gli occhi color nocciola. Non mi interessa altro. Me ne vado all'estero per un paio d'anni e quando ritorno verrò da voi per una moglie. Ricordatevi». Emma non correva pericolo di dimenticare. Era un incarico che toccava tutti i suoi sentimenti favoriti. Non sarebbe stata Harriet proprio la persona descritta? Eccettuati gli occhi color nocciola, 2 anni ancora avrebbero potuto renderla come egli desiderava. Poteva darsi che pensasse proprio a Harriet in quel momento. Chi poteva dirlo? Il fatto di rimettersene a lei per l'educazione sembrava implicarlo. «Ebbene, zia», disse Jane a Miss Bates, «dobbiamo andare a raggiungere Mrs. Elton?» «Volentieri, cara, di tutto cuore. Sono prontissima. Ero pronta ad andare con lei prima, ma ora sarà lo stesso. Presto la raggiungeremo». «Eccola là!» «No, quella è un'altra. Quella è una delle signore della comitiva che è venuta nella carrozza irlandese. Non le somiglia affatto. Ebbene, garantisco che...» Si allontanarono, seguite dopo mezzo minuto da Mr. Knightley. Rimasero solo Mr. Weston, suo figlio, Emma e Harriet. E il brio del giovanotto ora salì a un'intensità quasi spiacevole. Perfino Emma si stancò alla fine di adulazioni e di scherzi e desiderava piuttosto passeggiare calma calma con qualunque degli altri o di sedere quasi sola senza nessuno che le stesse attorno a osservare tranquillamente le belle vedute sotto di lei. La comparsa dei servi che li cercavano per avvertirgli che erano pronte le carrozze fu accolta da lei con gioia. E anche il tramestio per raccogliere le varie cose e prepararsi a partire, e la premura di Mrs. Elton per avere la sua carrozza per prima, furono tollerati di buon grado, con la prospettiva della tranquilla scarrozzata di ritorno che doveva concludere i molto problematici divertimenti di questa giornata di piacere. Sperava di non venire mai più coinvolta in un'altra comitiva del genere, composta di tanta gente male assortita. Mentre attendeva la carrozza, si trovò accanto a Mr. Knightley. Egli si guardò intorno, come per assicurarsi che nessuno potesse sentire. Poi disse: Emma, io debbo ancora una volta parlarvi come sono stato solito fare. Un privilegio più tollerato che concesso, forse, ma io debbo usarlo ancora. Non posso vedervi agir male senza protestare. Come avete potuto essere così dura con Miss Bates? Come avete potuto essere così insolente nella vostra arguzia verso una donna del suo carattere, della sua età e della sua posizione? Emma non l'avrei proprio creduto possibile. Emma ripensò, arrossì, provò dispiacere, ma cercò di volgere le cose in riso. Ma come potevo non dire quel che ho detto? Nessuno avrebbe potuto trattenersi, non era poi una cattiveria tale. Scommetto che non mi ha capita. Va sicuro di sì, ha sentito tutto quel che volevate dire. Ne ha parlato poi. Vorrei che aveste sentito come ne ha parlato, con che candore e generosità. Vorrei che aveste sentito che onore faceva alla vostra sopportazione, poiché riuscivate a usarle tanti riguardi, di cui essa era sempre l'oggetto da parte vostra e di vostro padre, mentre la sua compagnia doveva essere così seccante. «Oh!» esclamò Emma. «Io so che al mondo non c'è creatura migliore di lei, ma dovete concedere che la bontà e il ridicolo sono misti in lei in modo quanto mai sfortunato». «Sono misti», disse lui, «l'ammetto. E se essa fosse di condizione agiata, io potrei tener parecchio conto della prevalenza del ridicolo sulla bontà di tanto in tanto. Se essa fosse una donna facoltosa, lascerei che ogni innocente assurdità corresse il suo rischio e non me la piglierei con voi per nessuna libertà di maniere, se fosse vostro uguale nella posizione. Ma, Emma, considerate quanto questo sia lontano dall'essere il caso. È povera ed è caduta dall'agiatezza per la quale era nata, e se campa fino alla vecchiaia dovrà decadere anche di più. La sua posizione dovrebbe assicurarle la vostra pietà. È stata davvero una cattiveria. Voi, che essa aveva conosciuto fin da bambina, che aveva veduto crescere da un periodo in cui il suo prendervi in considerazione era un onore, vedere voi ora, spensieratamente e in un momento d'arroganza, prenderla in giro, umiliarla, e davanti a suo nipote anche, e dinanzi ad altri, molti dei quali, certo alcuni, si regolerebbero interamente secondo il modo in cui voi la trattate. Ciò non è piacevole per voi, ed è tutt'altro che piacevole per me, ma io devo, e intendo, proprio intendo dirvi ciò che è vero finché io posso, contento di dimostrarvi vostro amico consigliandovi lealmente, e fidando che una volta o l'altra mi renderete più giustizia di quanto non possiate fare ora. Mentre parlavano, avanzavano verso la carrozza. Questa era pronta, e prima che lei potesse replicare, egli l'aveva aiutata a salire. Egli aveva frainteso i sentimenti che le avevano fatto torgere la faccia e tener chiusa la bocca. Consistevano solo, quei sentimenti, di collera contro se stessa, di mortificazione e di profondo rammarico. Non era stata capace di parlare e, una volta dentro la carrozza, si lasciò andar giù per un momento sopraffatta. Poi, rimproverandosi di non essersi congedata, di non aver dato alcun segno di apprezzamento, separandosi come se in apparenza fosse imbronciata, s'affacciò con la voce e la mano pronte a mostrar che le cose non stavano così, ma era troppo tardi. Egli si era allontanato e i cavalli erano in moto. Essa continuò a guardare indietro, ma invano. Ben presto, con una velocità che sembrava straordinaria, si trovarono a metà della discesa, parecchio lontani. Emma era irritata al di là di quanto avrebbe potuto esprimere, quasi al di là di quanto sapeva nascondere. Non si era mai sentita così agitata, mortificata, addolorata in nessuna circostanza della sua vita. Era rimasta fortemente impressionata. Non si poteva negare la verità di ciò che gli aveva detto. Si sentiva il cuore toccato. Come aveva potuto essere così brutale, così crudele con Miss Bates? Come aveva potuto esporsi a una così cattiva opinione da parte di una persona a cui teneva? E come aveva potuto tollerare che egli la lasciasse senza dire una parola di gratitudine, di consenso, di comune cortesia? Il passare del tempo non la calmò. più ci rifletteva e più sembrava soffrirne. Non era mai stata tanto abbattuta. Fortunatamente non era necessario parlare. C'era soltanto Harriet che pareva depressa lei pure, stanca e molto disposta a stare zitta. Ed Emma sentì le lacrime rigarle le guance per quasi tutto il percorso, senza darsi la pena di frenarle, per straordinarie che fossero. Quella disgraziata gita a Box Hill non lasciò per tutta la sera la mente di Emma. Come potesse venir considerata dagli altri citanti, lei non sapeva dire. Essi, nelle loro varie case e nei loro diversi modi, potevano ripensarci con diletto, ma, a suo modo di vedere, era la mattina più completamente sciupata, più totalmente priva di ragionevole soddisfazione sul momento e più detestabile ancora nella memoria di quante ne avesse mai passate. Un'intera sera di tric-trac col padre era una delizia in confronto. Lì davvero c'era un piacere reale, perché dedicava le più dolci ore delle 24 al benessere di lui. E sentiva che, per poco meritato che potesse essere il grado del suo tenero affetto e della sua fidente stima, essa non poteva, nella sua condotta complessiva, essere suscettibile di severo rimprovero. Come figlia sperava di non essere senza cuore. Sperava che nessuno potesse dirle: «Come avete potuto essere così dura con vostro padre? Io debbo, intendo dirvi ciò che è vero finché posso». Miss Bates non avrebbe più, no mai più. Se riguardo, nel futuro, avesse potuto cancellare il passato, essa poteva sperare di venir perdonata. Spesso era stata negligente, la coscienza glielo diceva, più negligente forse nel pensiero che di fatto, sprezzante, sgarbata, ma non sarebbe più stato così. Nel calore della sua contrizione intendeva visitare Miss Bates la mattina seguente e sarebbe stato il principio, da parte sua, di rapporti regolari, gentili, come tra uguali. Non aveva cambiato risoluzione quando fu la mattina e si mosse per tempo perché nulla potesse impedirle d'andare. Non era improbabile, pensava, che incontrasse per via Mr. Knightley, o forse sarebbe potuto venire mentre essa stava facendo la sua visita. Non aveva nulla in contrario. Non si sarebbe vergognata dell'aria di penitenza che così giustamente e veracemente era la sua. I suoi occhi erano volti a Donwell mentre camminava, ma non lo vide. Le signore erano tutte in casa. Non si era mai rallegrata di tali parole prima, né era mai entrata prima nell'andito o aveva salito le scale con alcun desiderio di recar piacere, se non nel fare qualche favore, o di trarne piacere, se non nel ridere poi alle loro spalle. Ci fu una certa agitazione al suo avvicinarsi, un bel po' di movimento e di scambio di parole. Udì la voce di Miss Bates. Qualcosa doveva essere fatto in fretta e furia. La domestica aveva l'aria impaurita e goffa. Sperava che si compiacesse d'attendere un momento. Poi la introdusse troppo presto. La zia e la nipote parvero scappare entrambe nella stanza attigua. Per un attimo ebbe una chiara impressione di Jane, che aveva l'aria malatissima, e prima che la porta si fosse richiusa su di loro, sentì Miss Bates che diceva: «Ebbene, cara, dirò che ti sei messa a letto e son sicura che ti senti male abbastanza». La povera vecchia Mrs. Bates, cortese e umile, come sempre, aveva l'aria di non capire bene ciò che stava accadendo. «Temo che Jane non stia molto bene», disse. «Ma non so, a me dicono che sta bene. Credo che mia figlia sarà qui tra un momento, Miss Woodhouse. Spero che troviate una seggiola. Vorrei che Hattie non se ne fosse andata. Io sono poco capace». «Avete una seggiola, signora? Sedete dove vi piace. Sono sicura che sarà qui tra poco». Emma sperava sul serio che così fosse. Per un momento temette che Miss Bates si tenesse lontana da lei. Ma Miss Bates non tardò molto. Lietissima e obbligatissima, ma la coscienza di Emma le disse che non c'era la stessa loquacità di prima. c'era minor spigliatezza d'aria e di modi. L'informarsi molto amichevole di Miss Fairfax, essa sperava, avrebbe potuto condurre a un ritorno degli antichi sentimenti. L'eco sembrò immediato. «Ah, Miss Woodhouse, come siete buona! Suppongo che abbiate sentito e siete venuta per allegrarvi. Questo non ha l'aria d'allegria in me, davvero», lasciando sgorgare una lacrima o due. «Ma sarà molto penoso per noi separarci da lei, dopo averla avuta con noi tanto tempo. E proprio ora essa ha un terribile mal di capo, avendo scritto tutta la mattina, lettere così lunghe, sapete, al colonnello Campbell e a Mrs. Dixon. «Mia cara», ho detto io, «ti vuoi accecare?» Perché c'erano lacrime continue negli occhi di lei. «Non c'è da stupirsi. È un gran cambiamento. E sebbene sia straordinariamente fortunata, un posto, suppongo, quale nessuna giovane donna ha mai trovato prima, al principio della sua carriera, non crediateci ingrate, Miss Woodhouse, per una fortuna così sorprendente», di nuovo spargendo lacrime. «Ma, poveretta, se vedeste il mal di capo che ha, quando si soffre parecchio, sapete, non si può sentire una buona fortuna come merita. Non potrebbe essere più abbattuta. A guardarla, nessuno penserebbe quanto sia lieta e felice d'aver trovato un posto simile. Scuserete se non si presenta a voi, non ne è in grado. Si è ritirata nella sua camera. Io voglio che rimanga sdraiata sul letto». «Mia cara», ho detto, «dirò che ti sei messa a letto. Ma però non è così, sta passeggiando per la stanza. Ma ora che ha scritto le sue lettere, dice che presto si sentirà bene. Le dispiacerà moltissimo di non vedervi, Miss Woodhouse, ma la vostra bontà scuserà. Vi hanno fatto attendere alla porta, ne ho proprio vergogna, ma c'è stata un po' d'agitazione, perché è accaduto che non abbiamo sentito bussare, e finché non siete stata sulle scale, non sapevamo che venisse qualcuno». «È solo Mrs. Cole», ho detto io, «stai sicura? Nessun altro verrebbe così di buon'ora». «Ebbene», ha fatto lei, «bisognerà rassegnarcisi prima o poi, e tanto vale che sia ora». Ma poi è entrata Patty e ha detto che eravate voi. «Ah», ho fatto io, «è Miss Woodhouse, sono sicura che ti piacerà vederla». «Non posso vedere nessuno», ha detto lei, e si è alzata e se n'è voluta andare. Ed ecco perché l'abbiamo fatto attendere, e ne siamo state molto dispiacenti e vergognose. «Se devi andare, caro», ho detto io, «vai pure, e dirò che ti sei messa a letto». Emma provava un sincero interesse. Il suo cuore di recente si era intenerito nei riguardi di Jane, e questo quadro delle sue pene presenti agì come una cura d'ogni poco generoso sospetto anteriore, e non lasciò in lei altro che compassione. E il ricordo dei sentimenti meno giusti e meno benevoli del passato la obbligò ad ammettere che Jane poteva naturalmente decidersi a vedere Mrs. Cole o qualsiasi altra costante amica, mentre avrebbe potuto non tollerare di vedere lei stessa. Parlò come sentiva, con rammarico e con premura calorosi, desiderando sinceramente che le circostanze di cui essa prendeva l'effettiva accettazione dalle labbra di Miss Bates fossero le più possibili vantaggiose e confortevoli per Miss Fairfax. Doveva essere una dura prova per tutte loro. Essa aveva creduto che si sarebbe atteso fino al ritorno del colonnello Campbell. «Così gentile», rispose Miss Bates, «ma voi siete sempre gentile». Un tale sempre non era tollerabile, e per tagliar corto alla sua odiosa gratitudine, Emma chiese direttamente: «Dove si reca Miss Fairfax, posso chiederlo?» «Da una Mrs. Smallridge, una donna incantevole, proprio superiore, per assumersi l'educazione delle sue tre bambine, delle bimbe deliziose. Nessuna situazione potrebbe essere più piena di comodità, eccettuando forse la famiglia di Mrs. Suckling e quella di Mrs. Bridge. Ma Mrs. Smallridge è amica intima d'entrambe e sta nelle vicinanze. Abita a solo 4 miglia di distanza da Maple Grove. Emma sarà a solo 4 miglia da Maple Grove. Suppongo che Mrs. Elton sia stata la persona a cui Miss Fairfax deve... Sì, la nostra buona Mrs. Elton, l'amica più infaticabile e vera, non ha voluto accettare un rifiuto. non ha permesso a Jane di dire di no, perché quando Jane ha sentito della cosa la prima volta, è stato ieri l'altro, proprio la mattina che eravamo a Donwell. Quando Jane ha sentito della cosa la prima volta, era proprio decisa a non accettare l'offerta, e per le ragioni che dite voi. Esattamente come voi dite, aveva deciso di non impegnarsi fino al ritorno del colonnello Campbell, e nulla poteva indurla ad accettare alcun impiego per il momento. E così ripeté più volte a Mrs. Elton. Davvero io non mi immaginavo che avrebbe cambiato idea. Ma la buona Mrs. Elton, che non erra mai nei suoi giudizi, ha visto più in là di me. Non tutti avrebbero insistito in quel cortese modo di lei, o avrebbero rifiutato di accettare la risposta di Jane. Ma essa ha dichiarato decisamente di non voler scrivere quel rifiuto ieri, come Jane l'aveva pregata di fare. Avrebbe aspettato, ed ecco proprio che ieri sera è stato deciso che Jane andrà. Una vera sorpresa per me, non me lo sarei mai immaginato. Jane ha preso da parte Mrs. Elton e le ha detto subito che, ripensando ai vantaggi del posto di Mrs. Smallridge, aveva deciso di accettarlo. Io l'ho saputo soltanto quando tutto era deciso. Avete passato la serata da Mrs. Elton? Sì, tutte noi. Mrs. Elton ci ha volute. Venne deciso così sulla collina, mentre facevamo un giro con Mr. Knightley. Dovete tutti passare la sera con noi, disse. Positivamente bisogna che veniate tutti. C'era anche Mr. Knightley, vero? No, Mr. Knightley no. Declinò l'invito fin da principio, che sebbene io credessi che sarebbe venuto, perché Mrs. Elton dichiarò che non l'avrebbe dispensato, egli non venne, ma mia madre e Jane e io c'eravamo tutte, e abbiamo avuto una serata molto piacevole. Amici così gentili, sapete, Miss Woodhouse, si devono sempre trovare piacevoli, sebbene ognuno sembrasse piuttosto esaurito dopo la gita della mattina. Anche il piacere, sapete, stanca, e non posso dire che alcuno di loro sembrasse essersi molto divertito. Tuttavia, per conto mio, la riterrò sempre una gita piacevolissima, e mi sentirò obbligata verso i gentili amici che mi hanno compresa. Miss Fairfax, suppongo, sebbene voi non ve ne siate accorta, si era andata decidendo durante il corso dell'intera giornata. Suppongo di sì. Quando verrà l'ora, sarà una brutta ora per lei e per tutti i suoi amici. Ma spero che il suo impiego abbia ogni alleviamento possibile.